già pronto, sai dove devi arrivare, ma ti aspetta un lungo viaggio e tu lo sai. Riusciranno i nostri eroi a non bucare, altrimenti qui ci aspettano solo guai. 30 lire, questo è quanto ti è rimasto, molto spesso ti chiedi come farai. Con l'aiuto dei compagni del cammino, forse la meta sai raggiungerai. Io comunque arriverò, anche a piedi me ne andrò. Uomo come roccia prima del tramonto giungerò. 6-5. Palpando la tensione, la partenza è vicina, nulla ti può più fermare oramai. Vado ad accendere il furgone, passi a prendere il primo, il secondo già ti aspetta, waiting for you. Illumino d'immenso, per te non avrà un senso, ma il mistero sa donare eccitazione. It seems that I speed, but remember what I say, you must never become a little gay. Io comunque arriverò, anche a piedi me ne andrò. Oh yeah. Uomo come roccia prima del tramonto giungerò. Io comunque arriverò, anche a piedi me ne andrò. Uomo come roccia prima del tramonto.